Santoni Graziano, nato il 22-2 del 37, sono vecchissimo perché nel febbraio vado negli 80, ecco. Io ho lavorato non tanto, tantissimo. Quando ho comprato questa casa era dei carponi di arco, qui c'era una camera e di là c'era il giorno con il camino, una volta lo chiamavano il frugolare, che andava su. Io ho preso paura perché non ho mai visto una tremezza da uno qua all'altro in sassi. Una volta c'era il tufo e c'era su il nero del camino, alto così sui sassi. Ho lavorato 15 giorni a scappellarlo giù tutto. Allora, sì, c'era stata tutta vecchia, tutta deroccata, tutte ste robe, e l'ho comprata da questi caproni. E siccome questa casa avevo qui, c'era un po' di campagna qui vicina, e a me interessava la campagna perché io ho sempre fatto il contadino e mi interessava la terra. Ah no, ho tutto niente, c'era la campagna, 4 ettari di bosco e la casa. L'origine di questa casa direi che è una delle prime case del paese. La chiamavano la casa vecchia, che era dopo il ponte su, che dopo adesso l'hanno abbattuta. Quella dicevano che era la prima casa. Poi c'era questa e ce n'era un'altra un po' più avanti, 200-300 metri più avanti. Queste sono le tre prime case del paese. Poi in paese dove c'è la torre, quella lì l'hanno fatta, penso, dopo di queste case, perché era gente che veniva da Cavedine e attraversavano la valle in barca, perché qui era tutta una laguna. Il Sarca una volta non scorreva qui dove scorre adesso. Era tutta una palude che partiva dalle Sarche e andava fino al lago di Cavedine. Poi dal lago di Cavedine c'era un canale che portava l'acqua del Sarca, che da là dove si arriva in fondo all'ultima campagna, quella lì abbandonata, e lì c'era sto canale che arrivava e lì il Sarca continuava. E qui stiamo parlando dall'800 al 900, ecco. Succede che alle Sarche c'era un convento di frati e questi cosa hanno fatto? Visto che c'era sto fiume che andava a lagare tutta la valle, hanno fatto l'argine che dalle Sarche arriva al ponte del Gobolo, chiamiamolo il ponte Maso Gobo. Poi venendo giù avanti, il barone, lo chiamavano il Baronciani, che era il barone su di Lasino, era proprietario anche lui di terreni allagati, no? Si è fatto anche lui l'argine e così hanno incanalato il fiume fino, lo chiamiamo il Dozzertaio, e fin lì la campagna si poteva lavorare. Qui c'erano dei muri, c'erano delle piante così di noce. E poi la casa c'era tutta, insomma, tutta deroccata, non era abitabile. Prima la abitavano. Prima la strada che collegava Trento a Riva passava qui in fianco la casa. Saliva e andava fuori e veniva giù fuori dopo la troticoltura. Ecco, quello è il tratto della strada vecchia. Sono tutte cose che mi hanno tramandato i miei genitori e gli anziani, perché a me ha sempre piaciuto parlare con gli anziani. È sempre stato curioso di sapere com'era, come vivevano, tutte queste cose, no? Ricordo c'era una vecchietta che era proprietaria di quella terra lì, che le dicevo, la parte, l'ultima qui, che andavamo sempre a casa sua, era da sola, la chiamavano la Marietta. Aveva un soprannome, ecco, no, però non me lo ricordo. Andavamo lì sempre, ci davano i bambini qualcosa, no? Gli anni le chiamavano le persecche, pezzetti di frutta che le mettevano a seccare sulle finestre delle case. E allora noi, è come andare a nozze, ecco, diciamo, a prendere questa cosa di sta donna. Una cosa che mi preme dirvi è come vivevano le famiglie una volta. Vivevano di quel poco che c'era. Però avevano una affabilità fra famiglie e case, no? Io una volta abitavo su dove c'è la farmacia lì, la casa più vecchia che c'è su. E la sera noi da bambini giocavamo a nascondino, sapete cos'è il nascondino? La conta, e a darsela. E tutti i bambini delle case, facciamo come una famiglia, si giocava sempre assieme, tutte le sere. E gli anziani fuori di casa avevano una panca, tutte le case avevano una panca, e si parlavano da una casa all'altra, non come adesso che non si guardano più. Poco direi, ecco. Si parlavano tutti lì, qui c'era Giacomo, poi c'era l'Arturo, il Guglielmo, l'Alessio e dall'altra parte della strada Chemoli, Poldo, il Nilo, il papà del Nilo, i Trenti, Le putelle di Soprannova, che c'era un'osteria, era come una famiglia, direi, ecco, tutta una famiglia. Ed inverno cosa facevano? Perché era freddo stare sulle panche. Andavano nelle stalle c'era una panca, no? Di solito, e lì si sedevano, facevano il filò. Ecco, questo sistema come si viveva una volta. Questo è per voi, penso che sia molto importante, ecco. Io ho ricordi degli anziani che non li dimenticherò neanche dopo morto. Perché ho sempre avuto un bel rapporto con gli anziani, da sempre. Io ero piccolo, però c'era quello che abitava di fronte a me, dall'altra parte, io abitavo a destra della strada, lui a sinistra. Dopo pranzo era da solo questo povero uomo, aveva un figlio, però era in guerra, e era da solo e mi chiamava, Graziano! Era un po' orbo e non mi vedeva perché ero seduto sulla panca fuori dalla mia casa, 30 metri distante. Mi chiamavo, Graziano, vieni qui! Ma che botte! Allora andavo lì a farmi, mi raccontava sulle robe di una volta, no? E dall'altra parte, la casa era di due fratelli, il Poldo, aveva un pezzetto di campagna e lui, la sua moglie, che era a 100 metri da casa, 150, no? Gli portava il pranzo. Lui non veniva mai a casa a mezzogiorno, mai assolutamente. No, ma era, come dicevo prima, è tutta una famiglia, ecco. Pietramulata, quando lei era piccolo, quanti abitanti aveva? Giusto per... 400-500. Sì, perché dunque, i primi abitanti, almeno i miei anziani, abitavano nella zona di Masso Marocco. Sapete dov'è lassù? Lì sono stati, i primi abitanti abitavano nella zona di Masso Marocco e la zona del Dosso, lì alla torre. Ecco, lì erano i primi abitanti perché l'altro era tutta zona allagata, diciamo. Come dicevo prima, venivano con le barche dai monti di Cavedine, attraversavano con le barche e venivano fin qui in paese, insomma. Quando hanno bonificato che l'acqua scorreva lungo il fiume, allora hanno continuato a fabbricare. Nel 60-70 è stato il boom. E mi ricordo io, le case lì del borgo c'erano quasi tutte. E invece nella zona dal bar che c'è dal New Entry lì e quelle cose lì è tutto nuovo.